Letture di Radio 24. Fino alla sua morte, avvenuta il 2 marzo di 30 anni fa, Philip K. Dick rimase uno scrittore famoso solo presso il ristretto pubblico degli appassionati di fantascienza. Ma negli anni successivi, molti dei suoi romanzi furono adattati per il cinema, dando origine a film di grande successo come Blade Runner, Atto di Forza o Minority Report. In occasione del trentennale della sua scomparsa, la casa editrice Fanucci ripropone in edizione economica 30 dei suoi romanzi, assieme all'inedito Lo stravagante mondo di Mr. Ferguson. Il libro fa parte di un gruppo di romanzi scritti da Dick nella seconda metà degli anni 50, nei quali il visionario scrittore tentava di farsi strada al di fuori del genere fantastico. Ambientato in California, il libro racconta dell'amicizia tra il meccanico Jim Ferguson e Al Miller, un'amicizia destinata ad entrare in crisi quando Ferguson decide di andare in pensione e realizzare nuovi progetti vendendo le proprie terre. Ad Al Miller sembrava chiaro che ben presto avrebbe dovuto rinunciare al suo lotto di terra. Gliel'avrebbero portato via in vista di chissà quale grandioso progetto. Il nuovo proprietario avrebbe raso al suolo l'auto-officina e ci avrebbe costruito un supermercato, un negozio di mobili o un complesso di appartamenti. Era così che andavano le cose da parecchi anni a Oakland e a Berkeley. Gli edifici antichi venivano abbattuti, anche le vecchie chiese. E se si potevano buttar via le vecchie chiese, allora la stessa cosa si poteva fare anche con l'auto-officina di Ferguson e con l'auto-salone di Hall. Il pomeriggio successivo, con il morale a terra, percorse San Pablo Avenue fino a un'agenzia immobiliare in cui lavorava una donna con la quale aveva già trattato in passato. Non era un caso che Mrs. Lane fosse una donna di colore. L'aveva conosciuta attraverso i Dolittle. Molte delle proprietà che gestiva le aveva avute proprio da Mrs. Dolittle. Era specializzata in compravendite e affitti di immobili situati nella zona senza restrizioni di accesso, ma Al la vedeva come la zona fatiscente di Oakland. Sapeva di non poter sperare nulla di più. Che altro era una rivendita di auto usate se non l'incarnazione della Oakland più degradata? Con questi pensieri in testa, entrò nell'agenzia Lane e si avvicinò al bancone di quercia verniciata. Mrs. Lane sedeva alla scrivania battendo a macchina, ma quando lo notò, si alzò e andò verso il bancone sorridendo. «Cosa posso fare per lei?» Mrs. Lane aveva una voce bassa e morbida. Come sempre, aveva un aspetto imponente. Doveva avere fra i 45 e i 50 anni, giudicò Al. «Sto cercando un nuovo terreno», disse Al. «Capisco», disse Mrs. Lane. «Sulla San Pablo? Ne ho uno su Telegraph Avenue». Lo guardò con aria indagatrice per capire se era ciò che voleva. «Non importa dov'è», disse Al. «Basta che sia una bella zona». Non gli venne in mente un modo per arricchire quella frase. Si sforzò, senza trovare qualcosa di meglio. La donna gli sorrise amabilmente. Voleva aiutarlo, senza dubbio. Era il suo lavoro e metteva il cuore nel suo lavoro. Al lo sentiva. «Immagino che non abbia intenzione di spingersi troppo oltre», gli disse Mrs. Lane, «con il prezzo dell'affitto». «No», ammise lui. «Potrei accompagnarle in quel posto sulla Telegraph», disse Mrs. Lane. «Magari gli può dare un'occhiata». «Non mi serve subito», disse Al. «Ho circa un paio di mesi, non c'è fretta. Voglio essere sicuro di trovare qualcosa di buono». «Mi ascolti, Mr. Miller», disse la donna a voce bassa, appoggiando le grosse braccia scure sul bancone. «Lei deve muoversi, altrimenti si lascerà sfuggire un'opportunità. È una cosa che ho imparato nei tanti anni in cui ho lavorato in campo immobiliare. Se vuole ottenere qualcosa, deve sfruttare la situazione e muoversi, lo sa?» Attese, ma lui non disse nulla. Si limitò a tenere gli occhi a terra, sentendosi la mente troppo vuota per formulare una risposta. O si muove lei, o sarà il mondo a muoversi contro di lei. Insomma, vinceranno gli altri. Non c'è niente di male a darsi da fare. Non farà del male a nessuno. Credo sia questo a preoccuparla. Lei ha paura di fare un torto a qualcuno, perché si trova in una situazione in cui tutti le dicono così. Lui annuì. «Posso farle vedere quel posto?» disse Mrs. Lane facendo dondolare le chiavi della macchina. «No», rispose lui. «Magari fra un paio di giorni, quando avrò le idee più chiare». «Vuole solo vendermi qualcosa», si disse. Ma sapeva che c'era di più. Non era solo quello. «Ma cosa?» «Amore», pensò. «Amore per lui. Grossa, di mezza età, di aspetto piacevole, con la pelle non troppo scura. Una donna d'affari negra, pensò. Vuole farmi da mamma, se possibile. Si sentiva depresso, ma allo stesso tempo aveva come la sensazione che il suo fardello si fosse in parte alleggerito. Non si sentiva male come prima. Quella è una donna in gamba, una venditrice che sa il fatto suo, conosce i suoi polli, pensò. È una vera professionista. Tornerò, e lei lo sa. Non aveva voglia di tornare all'autosalone. Mise in moto la macchina senza dirigersi verso una meta precisa. Si limitò a muoversi nel traffico nel centro di Oakland, godendosi la sensazione della guida. La sua era una vecchia solida Chrysler con i sedili in pelle. Non si riusciva a inserire la retromarcia, però, e infatti l'aveva pagata $75, ma era una buona macchina. Buona almeno per qualsiasi persona ragionevole. Una macchina perfetta per l'autostrada. Mentre guidava immaginò di venderla e si costruì nella testa un bel discorso per magnificarne le qualità. Vi indugiò a lungo per tenersi occupato. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Philip K. Dick, Lo stravagante mondo di Mr. Ferguson, Fanucci Editore, 280 pagine, 17 euro. Esiste il triangolo d'oro e anche quello del corallo. Si trova tra Indonesia, Malesia e Filippine. È qui che vivono i Bajau Laut, gli ultimi nomadi del mare. Anche se molti di loro sono stati costretti a scegliere una vita sedentaria lungo le coste, c'è ancora chi considera l'oceano come la migliore delle dimore. Lo pensa sicuramente Ibu Diana Bututie, una delle poche donne al mondo a non aver mai lasciato il mare. Nata su una lepa-lepa, le tipiche imbarcazioni di legno lunghe e strette, non smetterebbe mai di essere cullata dagli spiriti che si nascondono tra le onde. Suo marito, come tutti gli uomini della comunità, si dedica alla pesca, ma sempre più spesso trascura reti e lenza per usare metodi distruttivi a base di cianuro, dinamite e fertilizzanti. Una pratica che non smette di causare vittime, ma a cui i Bajau sono spinti dalla crescente domanda di pesci vivi. L'epicentro del commercio, che vale $1 miliardi, si trova a Hong Kong e l'Indonesia da sola fornisce quasi il 50% della merce. I più richiesti sono cernie e pesci Napoleone, fondamentali per preservare l'ecosistema della barriera corallina. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elena Montobbio, Pescatori al cianuro, dal numero 39, marzo 2012, del magazine Il.